Siria la battaglia per Idlib è sempre più una guerra, ma tra chi esattamente? Israele, il 2 marzo si vota, Netanyahu pronto al colpaccio. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. A Syrian regime attack has killed 33 Turkish soldiers in Idlib province. For the third time in less than a year, the main contenders would once again be Prime Minister Benjamin Netanyahu and former IDF Chief of Staff Benny Gantz. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Ben ritrovati a Nessun Luogo Lontano. I saluti vi arrivano anche dalla squadra di Nessun Luogo: Antonio Tali, Ilaria Sesana, Giulia Cannizzaro, Valentina Ternullo e Valeria Bernardi, che è in regia. (349) 238-6666 per domande e commenti, ma anche Facebook, la pagina è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, infine Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Il tutto per commentare e porre domande sui due grandi temi che affronteremo in quest'ultima puntata della settimana di Nessun Luogo è Lontano. Da un lato facciamo il punto sulla lunga battaglia che si sta trasformando in una guerra silenziosa, quella per Idlib, con conseguenze che potrebbero arrivare molto presto anche da noi, in Europa e in Italia. Perché? Perché la Turchia, lo avete sentito anche dal GR, complice la crisi umanitaria di Idlib, sta sostanzialmente attuando quella già riproposta in passato formidabile leva o ricatto, direbbe qualcuno, pronto Erdogan a rimandare profughi verso l'Europa. La seconda pagina invece di Nessun Luogo Lontano: le terze elezioni in Israele nel giro di un anno, con ancora il testa a testa fra Benny Gantz, partito bianco-blu, e Benjamin Netanyahu del Likud, sullo sfondo di, lo dicevamo nei giorni scorsi, una jihad islamica che si è fatta più aggressiva, una società palestinese che ha mal digerito quel piano di Trump, insomma ancora una volta elezioni israeliane che però possono, come dire, dare il là a tutta il Medio Oriente e tutta l'area. Detto ciò, la prima cosa che faremo anche in questo venerdì è misurare la temperatura. Si è chiuso ieri un lungo bilaterale tra Italia e Francia, 11 ministri italiani, 11 transalpini, dopo ben 3 anni che i rapporti si erano a dir poco raffreddati. Finalmente ricomincia il dialogo, si sono affrontati tanti dossier, tra cui la gestione dei flussi migratori, ma quello che interessa e che ci ha interessato a noi di Nessun Luogo Lontano è stato il fatto che si è riaperto su quel tavolo il dossier dell'impegno internazionale dei due paesi europei all'estero, in particolare quello nel Sahel. Vi ricorderete, abbiamo spesso parlato dell'operazione Barkhane, che è questa operazione a guida francese nei paesi del Sahel, che sta cercando di minare quelle che sono i prodomi, le fondamenta di un potenziale nuovo califfato appunto in Sahel. Un'operazione che vedeva fino a qualche settimana fa 4.500 uomini effettivi sul terreno, con l'invio di altre 600 Macron ha voluto dare nuovo impulso alla lotta contro il terrorismo. E si è parlato anche della presenza italiana. A questo punto sorgeranno delle domande se l'Italia vorrà collaborare con la Francia in quello che è il nuovo fronte del terrorismo. L'Italia è già presente in Niger, ma con compiti di addestramento delle forze di sicurezza nigerine. Non siamo riusciti a capire se vi sia stato un invito esplicito da parte della Francia di unirsi e aumentare le truppe italiane in Niger. Bisogna ricordare che i soldati italiani sono presenti in 34 missioni internazionali, su tutte quella guida UNIFIL in Libano, poi l'Afghanistan, in cui è il secondo contingente internazionale più grande, con l'impiego di 5.600 soldati, e siamo al di sotto della soglia massima di gestione, che è 7.300 circa. Vedremo se dopo questo importante incontro diplomatico usciranno anche delle indicazioni e se vi saranno, evidentemente anche con un passaggio parlamentare, una nuova missione in Niger. Naturalmente su tutto questo c'è un punto di domanda. Intanto arrivano al 349-238-6666 un po' di messaggi. L'ultima mossa del presidente turco sta scatenando le reazioni degli ascoltatori, tra poco ve ne darò conto. Mentre è notizia freschissima, tra i primi a darla è stata ovviamente Al Jazeera, che è il grande network internazionale di lingua araba ma anche inglese che ha sede a Doha in Qatar, che ha rilanciato la notizia che, pensate, già domani si potrebbero rivedere le due delegazioni statunitensi e dei talebani per firmare quell'accordo di pace di cui si discute ormai da tantissimi anni. Non si conoscono i dettagli, a grandi linee, l'abbiamo spesso ricordato da questi microfoni, l'intesa è questa. I talebani potrebbero entrare a far parte del governo afghano, ci sarebbe il beneplacito degli Stati Uniti, attenzione perché Ashraf Ghani, il neo eletto e riconfermato presidente, non partecipa ai colloqui di Doha, e questo è il grande vulnus di questo lungo processo diplomatico. Detto ciò, appunto, i talebani potrebbero partecipare al governo afghano, e in cambio gli americani che si ritirano hanno la garanzia che i talebani non offriranno rifugio a jihadisti, a formazioni islamiste radicali, e non saranno in nessun modo una minaccia per la sicurezza degli Stati Uniti nel mondo. Vedremo, vedremo se vi sarà la firma domani sabato, e noi naturalmente saremo qui lunedì alle 16 per darvene conto. L'ultima notizia del termometro internazionale arriva da lontano ed è una notizia assolutamente passata in sordina, ma in qualche modo ci dà il riflesso di un paese, l'Etiopia, che ogni tanto abbiamo seguito, soprattutto dopo la nomina di quel giovane presidente Abiy, che è stato in qualche modo il grande faro in quella zona dell'Africa, il grande pacificatore con l'Eritrea. Se non fosse che da quando è in carica in realtà vi sono state un sacco di rivolte in Etiopia. L'ultima parla di almeno 12 morti e 7.000 sfollati per scontri etnici in una regione dell'ovest del grande paese africano. La regione si chiama Gambella, 400 abitazioni date alle fiamme, rubati capi di bestiame, sono popolazioni che vivono soprattutto nomadi e per pastorizia. Le tensioni etniche sono scoppiate soprattutto per l'accesso alle risorse, ma quello che è il dato interessante è che negli ultimi mesi si è arrivata a una cifra incredibile di sfollati interni pari a 3 milioni, sostanzialmente più di Siria, Yemen, Afghanistan e Somalia messi insieme. Insomma, il processo di democratizzazione dell'Etiopia avrebbe portato sostanzialmente a una maggiore libertà nel proporre le proprie istanze da parte delle varie anime etiopi, e questo inevitabilmente sta portando almeno a un temporaneo caos. Questo è il nostro termometro internazionale. La prima cosa che facciamo adesso è andare in Siria. I suoni che sentite li abbiamo recuperati da alcuni account Twitter che mostrano quello che è un'arma che è comparsa da pochi mesi su uno dei fronti a Idlib, e in particolare sono dei lanciarazzi che a spalla che consentono l'abbattimento dei velivoli. Se ne era già parlato tanto tempo fa, all'epoca c'era la Clinton segretario di Stato, c'era l'idea di consegnare ai ribelli siriani questi nuovi armamenti, nuovi per quel teatro, parliamo di questo. E detto ciò, si vedono in questo video che abbiamo recuperato due ribelli. Sapete che la compagine dei ribelli nella zona di Idlib è un grande mix in cui vi è un po' di tutto, su tutti ciò che resta di Jabhat al-Nusra, la filiale di Al-Qaeda che ha provato a cambiare nome dopo essere stata inserita nella lista dei terroristi internazionali. Comunque si vedono questi due miliziani che, imbracciando l'arma, tentano di abbattere un aereo. È l'ennesimo segno molto visibile, molto plastico, e avete sentito anche le sonorità piuttosto violente di come si è in corso a tutti gli effetti un'escalation nella zona di Idlib. Lo avete sentito anche dal GR, 33 soldati turchi sono stati uccisi da raid aerei. All'inizio la Turchia si era ben guardata ovviamente dall'addossare la colpa all'aviazione russa che protegge l'avanzata di Assad verso Idlib, e quindi avrebbe puntato il dito più facilmente, tra virgolette, contro Damasco. La verità è che quella zona è totalmente controllata, parlo dello spazio aereo, dall'aviazione russa, e quindi non è escludibile a priori che vi sia stato un bombardamento appunto da parte russa. Siamo nel nord-ovest della Siria, nel governatorato di Idlib. Idlib è una città da 157.000 abitanti, dovremmo dire prima della guerra evidentemente. Questo lungo conflitto che ormai dura da mesi, la guerra nella guerra, quella per la presa di Idlib, è fondamentale, ha fatto 950.000 sfollati, molti di questi si sono spostati verso la Turchia. Perché è importante, fra le altre cose, Idlib, che è un centro, soprattutto era un centro di produzione agricola, è vicinissimo all'intersezione di quelle due autostrade, la M4 e la M5, di cui vi abbiamo tanto parlato, ribattezzando questa guerra la guerra delle autostrade, quella lunga direttiva, una orizzontale e una verticale, che dovrebbe, nelle intenzioni di Assad, dare respiro, nuova economia e linfa a una Siria finalmente riunificata. E siamo anche molto vicini al confine turco. Sempre spulciando tra i social, abbiamo trovato una attivista siriana che ha ripreso i danni in un quartiere di Idlib provocati dalle bombe. Lei si chiama Merna Alassan, è molto attiva ed è assolutamente anti-Assad. Sentite il suo racconto, c'è anche un canale YouTube molto interessante, presi con le pinze questi racconti evidentemente, perché è molto schierata la testimone di cui vi proponiamo il racconto. Ascoltiamo insieme. Da ieri sera fino alla tarda mattinata di oggi, la città di Idlib è stata più volte colpita da bombardamenti da parte delle forze del regime. Come potete vedere, in questo quartiere sono stati causati gravi danni, oltre che agli abitanti e alle loro proprietà. Ripeto, qui ci sono solo civili e nonostante questo, l'area è stata bersaglio fin dalla mattina presto. Le squadre di volontari civili si sono adoperate per trasportare i feriti nei centri medici più vicini. La voce e il racconto di Merna Alassan, che è un'attivista che sta lavorando nella zona di Idlib e munita di telefonino cerca di raccontare quello che sta accadendo, stressando e sottolineando soprattutto che a fare le spese di questa guerra sono i civili. Vengo ai vostri messaggi arrivati al 349-238-6666. Un ascoltatore, uno dei più attenti del club degli affezionati di Nessun Luogo, è interessante perché innanzitutto torna alla questione dell'accordo con i talebani. Quanto vale la parola dei talebani? Nel mosaico afghano ogni warlord scontento ripudia i patti e ricomincia a sparare, taglieggiare, trafficare oppio. Sono d'accordissimo, gentile ascoltatore. Io ho la nettissima sensazione, ne parlavamo prima in redazione, che sia un'ennesima medaglia che Donald Trump e l'amministrazione statunitense si voglia appuntare in vista del Super Tuesday, tra pochissimo, ma soprattutto l'appuntamento elettorale finale, quello di novembre. Pensate, nel giro di pochi mesi è già praticamente in campagna elettorale. Ha eliminato al-Baghdadi, ha fatto fuori Soleimani, adesso potrebbe far la pace con i talebani e ritirare i Marines dal teatro afghano. Beh, insomma, direi che in politica estera sta stravincendo, non vincendo. Altri messaggi invece arrivano riguardanti la situazione terribile che c'è a Idlib, molto spesso ignorata e poco raccontata dai media. C'è un ascoltatore che dice fa un commento, una domanda interessantissima: cosa ci fa la Turchia in Siria? Ed è giusto che la Siria si difenda e scacci i turchi? È come, per esempio, dice l'ascoltatore Claudio, se i francesi o gli sloveni avessero delle truppe in Italia? E fa un punto di domanda. Questa è una dei grandi temi su cui ci siamo arrovellati in questi mesi, da quando la Turchia, complice il beneplacet della Russia dopo l'accordo di Sochi, ha detto: io ho intenzione di stabilire una fascia di sicurezza dentro al territorio siriano. E insomma, secondo molti analisti si è trattata a tutti gli effetti dell'invasione della Siria. Altri analisti contestavano questa visione dicendo: attenzione, ci sono gruppi jihadisti, Damasco non ha piena sovranità su quella parte di territorio. Certo che al di là delle dispute di diritto internazionale, quello a cui stiamo assistendo è un'annessione a tutti gli effetti di quello che era il territorio siriano da parte della Turchia. E poi invece sulla questione migratoria, di cui abbiamo già i prodromi, il GR ricordava perfettamente quei 300 migranti nella zona di confine di Evros, e poi sui social troverete vari account, soprattutto greci e turchi, ci sono immagini di migranti che partono, che cercano di arrivare verso le isole. L'ascoltatore, se arrivano più clandestini è un bene per economia e pensione, ed è ironico. Ottimo Erdogan, speriamo ne arrivino a milionate. Voglio solo sottolineare l'ennesima, come dire, prova di forza e di grande, non so se definirla astuzia politica nel lungo periodo, perché vedremo quanto Erdogan potrà mettere sotto scacco e sotto ricatto l'Europa. Peraltro Josep Borrell, l'alto rappresentante per gli affari esteri dell'Unione Europea, si è fatto rassicurare dai ministri turchi, dicendo che l'accordo, si è fatto dire, attenzione, quell'accordo UE-Turchia è ancora in piedi, quell'accordo miliardario che prevede la gestione dei flussi di migranti da parte della Turchia. Mi preme però tornare a Idlib, e lo facciamo con l'ambasciatore Alessandro Minuto Riz, già stato segretario generale ad interim della NATO, vice segretario, adesso è presidente del NATO Defense College Foundation. Ambasciatore Minuto Riz, buongiorno, ben ritrovato nel suo luogo lontano. Buongiorno a lei. Grazie innanzitutto del suo tempo, la ringrazio in anticipo di, come dire, mettere la testa su uno dei mosaici più complessi che in questi mesi di trasmissione abbiamo provato ad analizzare. Partiamo proprio dalla città, dalla zona di Idlib. Da quello che si evince, uno dei grandi nemici per Assad è ciò che resta di Jabhat al-Nusra, però forse vi sono anche ciò che resta del Free Syrian Army, insomma una grande complessità. Chi sono? Si è fatto un'idea di quali forze siano in campo nella provincia di Idlib? E che rapporti sono fra di loro? Beh, guardi, lei ha detto bene all'inizio, diciamo, della nostra conversazione. È difficile trovare un problema più complesso di questo. Ed è anche difficile trovare un problema, come dire, più difficile da realizzare di questo, perché in realtà la domanda che lei mi sta facendo è una domanda che si stanno facendo tutti nel mondo. Diciamo, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di questa zona di Idlib, che è nella parte nord-est della Siria, con una popolazione di circa 3 milioni di abitanti, presso poco complessivamente, dove sono presenti varie forze di vario tipo. Ci sono delle forze turche, lei l'ha appena detto, che sono lì da alcuni mesi. Ci sono anche degli residui dell'ISIS, se vogliamo. Quello che sembra essere, sulla base delle ultime, come dire così, analisi più importanti, sembra essere prevalente in questo momento in quella zona, è questo HTS, è l'erede di Al-Qaeda, è stato dipinto da quasi tutti gli analisti. Quindi diciamo un gruppo antisiriano, nel senso che antigoverno di Assad, antidamasco, però non direttamente collegato con l'ISIS, ma molto vicino, diciamo, a quello che era, diciamo, Osama Bin Laden e Al-Qaeda. Sì. Questo, diciamo, appare essere il gruppo principale e appare essere anche il gruppo che controlla la capitale, tra l'altro, no? Accanto a questo comunque ci sono dei gruppi molto diversi e anche di opposizione, c'è anche questa che viene considerata l'armata libera siriana, poi ognuno la definisce in 100.000 maniere diverse, ma che sarebbero, diciamo, i ribelli anti-Assad originari, quelli del 2011, che non sono né turchi né russi né terroristi, ma sono semplicemente dei siriani che non vogliono Assad, i quali però sono in minoranza e, diciamo, hanno perso la guerra. Insomma, no? Quindi c'è una composizione estremamente, come dire, frammentata, e la sensazione che ha l'analista è anche che, con tutto sommato, voglio dire, questa sconfitta dell'ISIS è stata forse annunciata un po' troppo presto, voglio dire, perché ci sono 3 milioni di persone in cui c'è una presenza di quelle forte, forse dovevamo essere un po' più cauti nel dare dei giudizi. Quindi l'altra domanda che lei mi fa, ma queste forze si parlano? No, secondo me non si parlano, si parlano per combattersi e non si sa bene neanche chi sta dove, perché ognuno ha un pezzetto di questi territori senza nome, che poi quando li conosciamo a stento, anche la geografia, a parte, diciamo, l'identificazione primaria, no? Dei vari villaggi e così via. E in mezzo a questo, no, perché poi in fondo l'elemento, diciamo, in discussione che lei pone correttamente, secondo me, all'inizio della sua esposizione, è la Turchia in quell'area. Certo. Certo, e veniamo al cuore. Intanto ricordo agli ascoltatori, la voce e l'analisi che state ascoltando è quella dell'ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo, e approfittiamo della sua competenza e del suo passato proprio in seno alla NATO per andare al cuore del problema. Dicevamo, la NATO, una NATO dalla politica particolarmente spregiudicata, una Turchia, che è membro della NATO, che, lo ricordiamo, compra i missili S-400 che sono di fabbricazione russa, quindi sostanzialmente un sistema missilistico anti-NATO. Mentre vi parlo, peraltro, dovrebbe essere iniziata, inizierà alle 16 ora locale, le 22 in Italia, una riunione straordinaria, appunto, della NATO per cercare di comprendere che cosa sta accadendo. Dicevo, questa NATO, che, perdonatemi, questa Turchia, continua a fare questo lapsus, ma si vede che voglio associarla indissolubilmente quando in realtà c'è qualche attenzione, ma detto ciò, questa Turchia che pare infischiarsene del ruolo della NATO, addirittura chiede la convocazione di un summit della NATO stessa perché si sente aggredita da una forza straniera. Allora gli analisti, quelli più scafati, dicono: cara Ankara, o tu sei parte della NATO o non ci sei. E a che gioco sta giocando Erdogan, ambasciatore? Perché davvero da qui non si riesce a capire. Ma guardi, questo è molto interessante, molto interessante, molto interessante. Capisco, come dire, che nella problematica politica l'interesse dell'osservatore, dell'analista, viene dopo, per dire, do conto, voglio dire. Ma quando gli storici guarderanno questo momento, secondo me, troveranno degli elementi molto importanti. La Turchia sta facendo un gioco strano da alcuni anni. Perché da alcuni anni a questa parte, ricordiamo per gli ascoltatori che la Turchia è stato un membro fedelissimo della NATO, sì, storicamente, sì, voglio dire, è un nemico storico dell'Unione Sovietica, è un nemico storico degli imperi zaristi prima, no? Per ricordarci dove stava l'impero ottomano della Turchia. Certo. Quindi parliamo di un paese che è sempre stato, diciamo, verso sud, diciamo, l'obiettivo della politica estera russa, sovietica, chiamiamola come ci pare, va bene? Quindi questo è il primo punto. E quindi durante la guerra fredda la Turchia era un fedelissimo alleato, governi democratici controllati dall'esercito, come sappiamo il secondo esercito della NATO dal punto di vista della potenza, della capacità, sì, sì, della Turchia, delle forze armate di primo ordine, da non confondere con quelle arabe che sono invece generalmente molto modeste, molto abili all'interno nel mantenere il potere di un dittatore, ma molto modeste nel combattere i nemici esterni. Ma lasciamo stare, questo non è il centro del problema. Quindi la Turchia, diciamo, ha cambiato da quando KP, il partito di Erdogan, è andato al potere, ha cambiato progressivamente e lui si è progressivamente, uso una terminologia un po' da uomo della strada, montato la testa, diciamo, no? Nel senso che molti dicono il nuovo sultano, lui, sì, vuole, sì, rinverdire tutto sommato quello che erano i fasti dell'impero ottomano, che c'erano effettivamente, e pensa a un, come dire, un controllo almeno economico, se non altro, della Turchia sul Medio Oriente. Ricordiamo anche che ha rotto con Israele, di cui era un alleato anticamente, queste sono, sì, cose di pochi anni fa, sì, sembrano lontanissime, ma sì, questo c'è, è anche vero, questa alleanza. È, diciamo, amico dei fratelli musulmani, quindi voglio dire, gioca nel Medio Oriente, per esempio, contro il regime egiziano. Sì. Ok, che è molto importante questo, quindi Turchia e Qatar, che segue la Turchia, sono contro il regime egiziano. Ha quindi questa maniera di fare le cose, in cui fino adesso, come lei correttamente sta dicendo, è sembrato infischiarsene completamente dalla NATO, di cui è paese membro. Tanto è vero che tutti noi, voglio dire, che siamo un po', voglio dire, facciamo parte un po' di questa categoria o di analisti o comunque di persone interessate alla geopolitica, ci siamo sempre detti, ma insomma, no? Non si può stare da due parti. E certo, il piede in due scarpe non funziona, soprattutto per un paese che dal punto di vista geografico è una formidabile cerniera tra l'Europa e l'Asia, e lo ricordo, potrebbe consentire lo sbocco totale sul mare da parte della Russia dopo le ultime mosse della Russia in Crimea e nonostante i porti, per esempio, sulla Latakia, che prosiede già in Siria. Ambasciatore, dobbiamo fare una piccola pausa perché tra pochissimo c'è l'informazione finanziaria, ma poi le devo fare una domanda perché, come dire, il sultano può anche mostrare i muscoli e mostrarsi arrogante e particolarmente, appunto, muscolare in politica estera. Poi però forse la NATO dovrebbe rispondere. Lei mi risponda dopo l'informazione. Stia con noi. Nessun luogo, nessun luogo è lontano ancora. Ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano, una lunga prima pagina dedicata alla crisi di Idlib. Lo ricordo, 950.000 sfollati, i civili stanno pagando lo scotto più alto di quella che è l'offensiva di Bashar al-Assad, supportato dall'aviazione russa, sta cercando di riprendersi il fondamentale snodo di Idlib, in particolare la città che è a 20 metri dell'intersezione di quelle M4 e M5, di cui spesso vi abbiamo raccontato l'importanza. 349 3328-3328-6666 invece per i vostri messaggi e i vostri commenti. C'è qualcuno che scrive: in Siria fuggono dai terroristi islamici, fuggono dall'Islam, dell'ISIS, difesi dalla Turchia che ci ricatta. Ad Aleppo, liberata da Assad, sono tornati i siriani. Basta eliminare gli estremisti islamici. Chi è che non lo vuole? Cui prodest? Così un ascoltatore, qualcun altro che punta il dito su Erdogan, che dice ha capito la debolezza della NATO e ci gioca, ne approfitta. Qualcun altro dice Erdogan ha capito la debolezza dell'Europa e continua a giocarci. Torniamo dall'ambasciatore Alessandro Minuto. No, stiamo per tornare dall'ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo, è stato segretario generale ad interim della NATO ed è adesso presidente della NATO Defense College Foundation. La domanda e diciamo il punto nevralgico che dobbiamo adesso provare ad analizzare è: cosa può fare la NATO rispetto a un partner, un membro che non solo acquista armi russe, è in una posizione importantissima e, come dire, ha una politica così spregiudicata da quasi mettere in dubbio quello che è il patto atlantico. Ambasciatore, rieccoci, è d'accordo con la mia superficiale analisi? Sono d'accordo, come dire, da un punto di vista, diciamo, pittorico, se vogliamo. Lei fa un affresco che è corretto dal punto di vista complessivo, voglio dire, no? Però, diciamo, dal punto di vista più concreto, insomma, credo che bisogna ricordare un attimo i fatti, voglio dire, no? Nel senso che poi si capisce anche meglio, come dire, dove stanno le cose. Sì. Cioè, la Turchia, abbiamo detto nella prima parte della sua intervista, che è un paese che si è, diciamo, tra virgolette, si è dato delle arie fino adesso e crede di poter fare quello che vuole. Benissimo, no? Questo qui è stato l'atteggiamento. La NATO, diciamo, non ha risposto, diciamo, in maniera troppo critica nei confronti del governo turco, perché il governo turco, e lei lo citava lei stesso prima, è un paese talmente importante, la Turchia, una cerniera col Medio Oriente, con la Russia, l'Iran, con Mar Caspio, eccetera, eccetera, che prima di rompere è meglio pensarci su due volte, perché voglio dire, il paese è troppo importante per perderlo così da un giorno all'altro, d'accordo? Sì, sì. Questa un po' è stata detto non detto, insomma, sì, ma praticamente di fatto la politica che è stata seguita in Occidente, no? Sì. Si è criticato sottovoce Erdogan, ma nessuno ufficialmente l'ha messo alla berlina. Adesso però si sta verificando un fatto nuovo, voglio dire, che mette, come dire, tutto questo castello di carte completamente a rischio. Nel senso, che cosa è successo ieri? Che l'aviazione russa, russa di Mosca, diciamo, no, che supporta il governo di Assad, ha ucciso 23 soldati turchi. Sì. Questo, come dire, è un cambio, un game changer, come si dice in inglese, molto importante, perché probabilmente la Turchia, da paese, come dicevamo, che è presente in Siria, non ci dovrebbe essere, che ce l'ha con i curdi, che si dà arie, che contro l'Egitto, eccetera, eccetera, improvvisamente diventa lei oggetto di un attacco a cui si trova in un fortissimo imbarazzo ed è anche una grande umiliazione. Certo. Perché per avere 23 soldati uccisi dagli aerei russi. Peraltro, ambasciatore, 33 se non erro, ma detto ciò, quasi la Turchia sta chiedendo aiuto alla NATO in seguito a questa aggressione. La NATO potrebbe rispondere? Allora, perché io sto pure andando sui fatti, perché sì, come dire, credo che per gli ascoltatori siano anche importanti, sì, i giudizi che noi diamo, come dire, siamo, mi pare, d'accordo nella sostanza, insomma, no? Però, ma il fatto è questo, che la NATO ieri, anzi questa mattina, la NATO si è riunita, il Consiglio degli Ambasciatori della NATO, il Consiglio Nord Atlantico, si chiama North Atlantic, sì, Council, si è riunito in seduta straordinaria per discutere una richiesta di consultazione da parte del governo turco, attenzione, in base all'articolo 4 del trattato della NATO, che prevede la consultazione fra alleati nel caso del rischio di un attacco dall'esterno. Sì. Questa è la ragione, diciamo, sì, giuridica con cui il governo turco ha chiesto che la NATO, come dire, venisse convocata per discutere la questione. La NATO ha emesso un comunicato un paio d'ore fa, circa più o meno, in cui il Consiglio Atlantico, dopo essersi riunito, esprime solidarietà alla Turchia, e invita il governo siriano e i suoi sostenitori, eccetera, eccetera, a sospendere questi attacchi nei confronti della Turchia e, va anche oltre, dichiara che darà un aiuto, un'assistenza alla difesa antiaerea turca. Ok. Questo, come dire, è un cambiamento molto importante che si può vedere naturalmente anche lì in maniere diverse. Decisamente. No? No? Nel senso che da una parte uno può dire, come ha detto l'ambasciatrice americana alla NATO ieri sera in una dichiarazione che ha fatto alla stampa, esattamente, beh, insomma, bravi turchi, prima fate quello che vi pare, ci mandate al diavolo, ci prendete a calci, poi quando avete bisogno chiedete aiuto. No, certo. Questo è un po', diciamo, no? Una lettura un po' prosaica, diciamo, poco diplomatica, però insomma. Esattamente, molto poco diplomatico, il classico fuori onda che viene fuori, no? eccetera. Però il Consiglio Atlantico invece ha deciso in maniera diversa, ha deciso di sostenere la Turchia perché è un alleato che viene in attacco. E allora, anche lì, noi dobbiamo fare appello, credo, alla nostra saggezza collettiva, no? Dire, cosa è conveniente per la NATO, per l'Occidente in realtà, perché per la NATO che cos'è? È l'Europa e il Nord America. Cos'è conveniente? Io credo che il Consiglio Atlantico abbia ragione alla fine, perché se noi riusciamo in questa maniera a riprendere per le orecchie la Turchia, per la punta dei capelli, e a riportarla in un ambito di consultazione, di coordinamento, di così mancanze unilaterali, diremmo forse alla fine è un bene, avviene nella maniera sbagliata, questo siamo d'accordo tutti, voglio dire, ma potrebbe essere un modo in cui, come dire, la Turchia è costretta a riconoscere che in realtà quando lei ha bisogno di aiuto, l'unico aiuto che le può venire dai suoi antichi alleati che lei ha disprezzato, questo potrebbe essere anche un bene in un certo senso, no? Sì. Una maniera per, sì, come dire, rimettere le cose a posto senza rompere tutti i bicchieri. Insomma, chiarissimo, maniera, diciamo, no? Provo a sintetizzare ancora una volta in maniera prosaica l'analisi dell'ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo, lo ripeto, ha avuto una lunga esperienza proprio in seno alla NATO. Ricordate quella efficace e anche irriverente espressione del presidente Macron: la NATO è in uno stato di coma cerebrale. Ecco, paradossalmente il dossier del nord-ovest della Siria, quello di Idlib, in realtà potrebbe dare una scossa e riassestare anche un po' le relazioni in seno alla NATO. Vedremo che cosa accadrà naturalmente nei prossimi giorni. Intanto grazie mille per la sua analisi e il suo tempo all'ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo, che è presidente del NATO Defense College Foundation. Buona giornata e buon lavoro, ambasciatore. Arrivederla, buona trasmissione, arrivederla. Allora, 349-238-6666, devo dire che questa analisi su una situazione molto complessa ci ha mangiato un po' di tempo, ma ritengo sia tempo ben investito, perché quello che sta accadendo in queste ore a Idlib, lo ripetiamo, potrebbe avere un impatto potentissimo e violentissimo, non soltanto sul patto atlantico, ma anche sull'intera Europa, con quel continuo ricatto a cui allude molto spesso Erdogan, anche con, a volte con dei sussurri, altre volte con dichiarazioni molto più marcate, più nette. La volontà di aprire i confini e far arrivare i profughi in Italia. Qualche ascoltatore al 349-238-6666 dice: attenzione, perché potrebbe essere anche un modo per far infiltrare gruppi jihadisti, cellule dormienti che potrebbero colpire l'Europa dall'interno. Perché la NATO dovrebbe sostenere la Turchia quando sta portando avanti una guerra di invasione e non è attaccata nei propri confini? Così un altro ascoltatore fa parte, diciamo, di quella lunga schiera di osservatori internazionali che bollano non soltanto l'interventismo turco in Siria, ma anche questa successiva bizzarra richiesta di aiuto, come da un lato la muscolarità di Erdogan e poi dall'altro quasi una marcia indietro, trovandosi in situazioni anche piuttosto complesse. 33 soldati uccisi, parecchi mezzi distrutti, ha additato Assad, quindi Damasco, come responsabile, ma perché non poteva puntare il dito direttamente su Mosca, sarebbe stato particolarmente grave. Però quella zona aerea lì è controllata dall'aviazione russa e quindi, come dire, è inevitabile la deduzione. Detto ciò, andiamo subito sulla viabilità italiana e poi ci prendiamo gli ultimi 10 minuti per un assaggio di quella che è la giornata quasi preelettorale in Israele. Nessun luogo è lontano. Rieccoci, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. L'ultima parte di Nessun Luogo è Lontano. Vi faccio sentire un assaggio di quella che sarà una puntata speciale, in realtà domani, sabato alle 10. Voi sapete, normalmente c'è il meglio di Nessun Luogo è Lontano, ma vi proporremo ex novo tutto ciò che non riusciremo a farvi sentire quest'oggi. Un'interessantissima analisi. Abbiamo scelto due privilegiati osservatori israeliani per quella che è un'elezione storica importantissima per tre volte gli israeliani chiamati alle urne nel giro di un anno. Quel testa a testa, quel braccio di ferro tra Benny Gantz e Benjamin Netanyahu, entrambi peraltro, lo ricorderete, invitati a Washington da Donald Trump, non hanno consentito di formare un governo durevole, per cui il 2 marzo si torna a votare. Per cercare di avere un punto di vista il più possibile equilibrato. Abbiamo scelto da un lato Steve Lind, che è ex direttore del Jerusalem Post, adesso direttore del periodico The Jerusalem Report, che è dello stesso gruppo editoriale, e poi Anshel Pfeffer, che è un editorialista di Haaretz, che a dispetto del Jerusalem Post invece è più marcatamente a sinistra. E iniziamo dandovi quelli che sono gli ultimi sondaggi pubblicati proprio dal Jerusalem Post. La coalizione di destra guidata da Netanyahu si dovrebbe aggiudicare 59 seggi, a due seggi di distanza dalla maggioranza che è necessaria per dal numero che è necessario per avere la maggioranza. Il Likud dovrebbe ottenere 35 seggi contro i 33 del partito blu e bianco. Altri sondaggi danno sostanzialmente risultati simili. Degna di nota è la lista araba unita, fra l'altro c'era anche un'intervista sul venerdì di Repubblica, se non erro. Insomma, il leader, il rappresentante, non nasconde la volontà di essere la vera voce di sinistra di Israele. Partiamo da chi? Partiamo da Steve Lind, ex direttore del Jerusalem Post. Dopo tre elezioni, i due partiti principali potrebbero essere pronti per un governo di accordo nazionale, o non c'è proprio modo che Benjamin e Benny si parlino? Sentite Steve Lind. Well, the way things look at the moment is the two parties, the Likud, which as you know is in power at the moment. Beh, da come sembra che le cose stiano al momento, il Likud, che come sappiamo al momento è il partito di maggioranza, e il blu e bianco all'opposizione, stanno letteralmente correndo in un testa a testa. Tutti i sondaggi sui quotidiani di oggi, in televisione e alla radio, ci mostrano un equilibrio, anche se alcuni di questi sondaggi ipotizzano un leggero vantaggio del Likud. Sembra che il blocco di destra, guidato dal Likud, possa ottenere più seggi e che alla fine, stavolta, possa guadagnare la maggioranza di 61 seggi in un parlamento come la Knesset, che ne conta 120. Quindi alla fine è possibile che il Likud vinca e che formi una coalizione di destra. C'è anche un altro scenario tuttora possibile, ma è improbabile, nel quale nessuno dei due principali partiti ottiene la maggioranza e alla fine sono costretti a formare qualche tipo di coalizione. Tuttavia, al momento, la posizione del partito blu e bianco è che finché Benjamin Netanyahu rimane in carica come primo ministro, non siederanno mai con lui, a causa delle indagini per corruzione sul suo conto ancora in corso. L'opinione e la lettura di Steve Lind del Jerusalem Post, ex direttore. Chiudiamo le pagine di quel quotidiano di area conservatrice, apriamo invece le pagine di Haaretz, lo facciamo con Anshel Pfeffer, la domanda è la stessa. Ricordo anche che Anshel Pfeffer è, come dire, piuttosto nemico di Benjamin Netanyahu, ha scritto una corrosiva biografia, un libro che si chiama Bibi, The Turbulent Life and Times of Benjamin Netanyahu. Detto ciò, ascoltiamo la risposta di Pfeffer e proseguiamo in questa quasi una partita di ping pong. La politica israeliana vista da due autorevoli commentatori, uno più o meno a destra, l'altro più o meno a sinistra. Al momento sembra che il risultato possa essere molto simile a quello delle due precedenti tornate elettorali, in cui Netanyahu non ha potuto formare una coalizione di governo per la mancanza di una maggioranza. Ma nemmeno i partiti che non supportano Netanyahu hanno potuto formare un governo perché non condividono quasi nulla, a parte il fatto che non vogliono stare in un governo guidato da Netanyahu. Abbiamo fatto menzione a quelli che sono i problemi giudiziari di Benjamin Netanyahu. Le indagini per corruzione potrebbero influenzare questo voto? Andiamo di nuovo al Jerusalem Post e alla voce di Steve Lind. Non sembra, almeno a giudicare dagli ultimi sondaggi, se crediamo ai sondaggi, che le accuse di corruzione nei confronti di Netanyahu e il processo che inizierà due settimane dopo le elezioni abbiano persuaso gli elettori a non votare per lui. Al contrario, ironicamente, sembra che le accuse abbiano rinforzato Netanyahu. Forse a causa della situazione della sicurezza del paese, forse a causa del balzo nell'economia o per via di altri fattori, Netanyahu è ancora il leader più popolare del paese ed è ancora diretto verso la vittoria. In realtà, un possibile fattore che potrebbe influenzare le elezioni è il coronavirus. Secondo diversi articoli pubblicati dalla stampa israeliana, molta gente potrebbe disertare i seggi elettorali, non per l'apatia, ma per il timore di risultare contaminata. Afraid of being contaminated with the virus. La voce di Steve Linde per rispondere alla domanda a quanto le indagini e le inchieste sulla corruzione di Netanyahu possano impattare sul voto. Non tanto, dice Linde, anzi addirittura potrebbe trarne beneficio il politico di lungo corso israeliano. Sentite invece l'opinione di Anshel Pfeffer di Haaretz. Di certo ha un impatto. Ci sono elettori di destra che votano per il partito blu e bianco o per altri partiti perché non vogliono votare per il Likud di Netanyahu nel momento in cui lui sta affrontando queste accuse. Ma è una situazione che va avanti da parecchio tempo e ci sono molti elettori che voteranno per il Likud e per partiti che lo supportano. Questa è una situazione aperta da diverso tempo e non abbiamo visto grandi cambiamenti malgrado il fatto che Netanyahu è già stato incriminato ed è stata fissata una data per l'udienza. C'è il dossier della corruzione, dei guai giudiziari di Netanyahu che pende sulla sua testa, poi c'è l'altro grande dossier, ne abbiamo parlato a lungo, il piano di pace proposto da Donald Trump, rigettato al mittente da parte palestinesi. Quale potrebbe essere allora l'impatto sul voto? Sentite Steve Linde del Jerusalem Post. Well, the plan was welcomed by both parties, Likud and Blue and White. Beh, il piano di pace ha il gradimento di entrambi i partiti principali, sia del Likud che del Blu e Bianco. Il presidente Donald Trump si è incontrato sia con Netanyahu che con Benny Gantz, ed entrambi hanno detto che si trattava di un buon punto di partenza. Sfortunatamente, tuttavia, l'autorità palestinese ha completamente respinto il piano e non sembra che ci sia una vera possibilità. Ma dato che il piano è sostenuto da vari stati arabi della regione e da alcuni paesi del Golfo, forse dopo le elezioni ci sarà la possibilità di un maggiore appoggio su questo piano. E forse l'autorità palestinese si siederà al tavolo dei negoziati. Per ora il piano di pace non sembra un punto centrale di queste elezioni. Di fatto viene menzionato raramente. E adesso l'opinione invece di Anshel Pfeffer, Haaretz, lui il biografo graffiante di Benjamin Netanyahu, qual è la sua opinione rispetto al piano di pace? È interessante sapere l'opinione su questo specifico dossier perché è il dossier medio orientale e presentato al Donald Trump con tutti i fasti, come se fosse il piano che dovrebbe dirimere definitivamente la questione israelo-palestinese. Ma nella politica israeliana che impatto ha avuto? Sentite Anshel Pfeffer. Il piano è stato presentato quasi un mese fa e non abbiamo visto un particolare cambiamento nei sondaggi. Non ha avuto un grande impatto. Probabilmente sposterà voti verso il Likud, ma penso che molti israeliani già si aspettassero che il piano, qualunque fosse, sarebbe stato molto favorevole a Israele e ai coloni. Penso che nessuno sia rimasto sorpreso o abbia pensato di cambiare idea sul proprio voto a causa di questo piano. Con la voce e il commento di Anshel Pfeffer chiudiamo questa pagina dedicata alle elezioni, naturalmente chiudiamo anche la puntata. Vi ricordo che però domattina ore 10 nel meglio di Nessun Luogo Lontano vi riproporremo integralmente tutto il dibattito dei due giornalisti che abbiamo registrato pochi minuti fa e così potrete avere un sguardo privilegiato sull'appuntamento di lunedì. Noi naturalmente saremo lunedì di nuovo in diretta. Dimenticavo una parola. E i titoli di coda fatti per bene, che vuol dire ringraziare tutti voi che siete stati all'ascolto, alla squadra di Nessun Luogo. L'appuntamento domattina ore 10 e poi sabato ore 16. Intanto un saluto e un buon weekend da Giampaolo Musumeci.